non senti la minima distorsione, disocutizzante, pare da sé in un teatro. Come ti chiesto che papi ha Gianni in macchina, la musica liscia liscia, non senti la minima distorsione. Le casse se le ha costruite lui addirittura, e sono proprio in legno come piacciono a te. Se ti sto dicendo che per poco ne le cadeva una da sopra, che si è messa a camminare da solo. Ma che dici, l'ho questo amico mio, saliamo a casa sua e te lo faccio vedere, ma a due meno, lo buotta di più. Se ne ci dà una, cazzo, con i belli dritti, cazzo, a rompere balle, a chi no che deve rompere balle, come l'ha sentito. Io l'ho sentito qua, con le finestre chiuse, che ho i doppi vetri io. Sentivo questa musica bella, ma cosa sarà? Che io non sapevo chi è dove via che c'è cosa così. Ma no, che cosa c'è? La discoteca ha visto. Cazzo, mi sono contento chi non fa di vero. Cazzo, sono salito un giorno, no, e me l'ha fatto sentire da casa sua. Ma me l'ha fatto vedere a quanto era il voluto. Ti sto dicendo che se non mi ha bisogno ne ripara la caccia da sopra la faggascia. Eia, vabbè, comunque ha detto a dare un bacio a Gabriele, così mi ha detto la 50. Eia, eia. Allora, lo prendo io, non prendo il telefono, perché sta Gabriele in mano, capito? Ma stai bene, Natalia? E' pigliata la gola, insomma, non posso fare nulla, mamma mia. Adesso domani devo uscire, dopodomani devo andare a Platamona a fare un esame, qua. Meglio la morte. L'altro giorno mi è mancata la voce, non potevo manco parlarmi. Perché due settimane fa sono uscito con Coso, con Franco. Anche Franco non può parlare, che sto rauco. Abbiamo preso questo colpo d'aria, sta ammazzando. Adesso non è che sto bene io, quindi è meglio un rubistino minore a non fidarsi. Oh signore benedetto, quando mi avrà passato c'è cosa, so con più di due piedi così. Capiniamo una sera, però un pochettino. E quando sto bene io, aspetta che hanno suonato, tanto che vado ad aprire. Ciao Antu, ciao. Chiamate. Chi sei? Sì, avanti, buonasera. Ciao, chi sei, Antonello? Io, ciao, buonasera. Chi sei, non ho capito. Antonello, ciao. E ti sento tutto a colpi, come va? Come tutto a colpi? Ma stanno a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Buonasera. adesso già va bene, ho sentito anche a Gavino di sfuggita. Ciao Gavino, anche a te. Ciao Gavino, buonasera a te. Buonasera Antonello, buonasera Roberto. Però io sto uscendo con un radio diverso dal solito, sicuramente mi ascoltate in un modo diverso. Ah, sono un po' più bassa, però ti ascolto bene io, Robè. Tu come ricopri, Robè? Ti sto ascoltando con un altro altoparlante, però là ti ascolto bene, abbastanza bene. Aspetta che cambio radio, così vi do i rapporti giusti, eccetera. Un po', allora. Prova, prova, ci siamo qua noi. Dimmi, caro. Ma tu sei con questa portantina? In che senso portantina? Perché sono basso. No, facendo prove con Mike. Ah, vabbè, quello sì. Stavo schiacciando un tanto, ta ta ta ta ta ta. Spiegato per vedere se c'è qualcuno, se no assolutamente. Oh, Antonio, come mi occupi? Bene, bene, la verità bene. Buon passaggio. Ma la radio è satura? Ora posso, se sta saturando la radio, cosa devo fare? Sono 9:10, radio 5 a bomba, la verità. Sto usando un MB4 modificato, Antonio, con un microfono SM58. No, sta scendo veramente bene, la verità. Sei un bombo, sì. Via. Adesso cambio, lascio sempre la base dell'MP4 e metto SM57, che dovrebbe essere un po' più dinamico, riesci a vedere. Sono rientrato qua. Sì, Robert. Sì. Robert. Dimmi, Gabi. Sto usando una base MP4 con, diciamo, con uno chilo di microfono di batteria. Un SM58 è satura la radio da te? No, satura non è stata, la sento un pochettino chiusa come modulazione, non è proprio ottimale, però è buona, chiara, niente da dire. Ok, la senti chiusa, questo potrebbe essere l'SM58. Adesso provo 57, Robe. Ma che macchina stai usando? Il 450. Ah, va bene. Prendi un attimino il processore, fai la prova senza il processore, magari ti modifica la modulazione. Vai a vedere, adesso è senza processore. Mettilo. Lo metto? E fammi due passaggi, uno dietro l'altro. Allora, questo qua è un passaggio senza processore, microfono, vabbè, su SM58, ora aggancio il processore. Adesso ho messo il processore. Ok, processore agganciato, sempre stesso microfono, sempre stessa radio, e niente. Modulazione 10 cm dal microfono. Ma che microfono sta utilizzando? Non ho capito, spiegami un po', cos'è Shure? Uno Shure SM58. No, adesso ti ascolto meglio, probabilmente poco fa era poco direzionato, adesso va bene. Adesso provo l'SM57, quello che si mette per i piatti, diciamo, per il charleston e per il rullo della batteria. E magari va meglio quello, perché quello c'ha una risposta in frequenza diversa, più dedicata magari qua a queste bande degli 11 metri. Ok, SM57, sempre la stessa distanza, base MB4. Questa è un po' più di acutity, da buona anche questa con modulazione, l'altra leggermente più carica di basso, ma già vanno bene tutti e due. Tu quale preferisci, a orecchio tuo? Diciamo più o meno sono, diciamo, dipende dai gusti, l'altra forse è un po' più naturale, la prima, però questa c'ha un pochettino più di acuti, dipende, se ti puoi fare ascoltare in profondità, diciamo, a lunga distanza, forse questa va meglio, però l'altra è più naturale, dai, l'ascolto. E più dinamica. Diciamo più voce naturale, dai, c'ha una risposta più naturale. Ok, ma la radio è forte, satura, cosa deve fare? Non deve fare niente, è perfetto, a livello microfonico è perfetto, sono belle tutte e due, cioè a livello proprio di coso, deve essere proprio pignolo per sentire la differenza. Adesso il microfono era a 7 prima, adesso l'ho portato a 8. Aspetta che ti faccio una valutazione, prova a parlare. Allora, questo ha una, questo qua con il microfono è a 8 e questo è a 9, a 9 e così al massimo a 10. Cosa deve fare? 7, lascia 7. Perfetto, perfetto, a 7. Questo qua è il volume a 7 del microfono. Ok. Mettila sì un attimino, perché se alzi appena appena o se te l'avvicini troppo leggermente strappa. Così a sì. Così a sì. Sempre 10 cm dalla bocca. Lascialo a sì, dai, perché a 7 se magari ti muovi un pochettino, te lo metti troppo vicino, c'ha un leggero strappo. Sì, è perfetto. Ok, perfetto. Perfetto, vai. Ho fatto questa prova, adesso vediamo un pochino se regge, se regge. Ma stai usando il mixer per interfacciarlo? Assolutamente no, assolutamente no, gli ho messo un XLR, così posso provare tutti i microfoni che voglio. In pratica ad l'uscita della scheda ho allungato un cavo, una treccia, e gli ho messo un XLR femmina, così io posso usare tutti i microfoni che vuoi. Adesso ti faccio sentire, adesso ti faccio sentire un microfono per violino. Ti faccio sentire un microfono per violino, guarda. Questo c'ha un pochettino di sh quando parli. Allora Roberto, questo è un microfono per violino. Questo è un microfono per violino. Questo qua è un Sennheiser. Un Sennheiser ad archetto. Questo è un Sennheiser ad archetto. No, non è adatto. Muore la modulazione, ma non è adatto. Ti dà un po' di effetto. Ok, ok. Metti il primo di tutti. Ok, questo è il primo di tutti. Questo è il primo di quando sono entrato. Questo è il più equilibrato di tutti, è il migliore di tutti. Quello col violino non si adatta molto. L'altro dà leggermente un po' di acuti, quello il secondo che hai provato, però questo è il migliore in assoluto. Adesso l'ho ascoltato con più attenzione, equilibrata la modulazione, non vedo esaltazioni o attenuazioni, è proprio libera, lineare come modulazione. Va benissimo, tieni questo se vuoi utilizzarlo, va benissimo. Ok, perfetto. Questo è un classico SM58 di musica che usano i cantanti. Scusa, questo è il classico SMC, quanto ti dico di più? Niente di più, niente di meno. Con la base l'MDQ qua e la modifica delle resistenze, basta. Ho uno Shure, qua se ce l'abbia io, adesso non mi ricordo che modello è quello che c'è della Shure, magari è lo stesso. L'SM50, questo è un SM50. Secondo te va meglio dell'MC80 di come mi sentivi le altre volte o è peggio? Una della memoria, per come mi ricordo, questo è più naturale, è una bella modulazione. L'MC60 è un po' più da combattimento, più piena, come tipo quando sull'applicazione la senti di più, però devo dire come qualità mi sembra migliore questo. Ma scusa, non il 60, l'MC80, ti ho detto una fesseria, l'MC80. Vabbè, quello che era che utilizzavo adesso mi ricordo se era l'80 o il 60, però questo mi sembra più naturale, molto migliore, almeno più presente, più lineare, dai, quando ascolto una cosa lineare, pulita, non è né nasina né troppo carica di niente, è molto naturale. L'MC60 ti dà un po' più di coso, di modulazione un po' più forte, tra l'altro, l'MC80 un po' più carica, sembra diciamo quando c'è una radio un po' più amplificata, però questa è più lineare, la sento meglio. Ok, positivo, positivo. Sì, va bene così. Adesso mi stacco il connettore dal mic originale e lo attacco nelle MC80. Così ce li ho tutti e due e posso fare la comparazione di ruolo. Ma la domanda, il PTT con cosa lo sta comandando? Col pedale? No, il PTT lo sto comandando con l'MDQ4. In pratica, hai presente l'MDQ4, no? Gli ho tolto, diciamo, il braccio dove attacca il micro, dove attacca la capsula, quello gliel'ho eliminato e sotto ti ritrovi un bulloncino da 13. A questo bulloncino da 13, invece di mettere il braccio, gli ho messo un'asta, diciamo, un'asta giraffa corta 40 centimetri, quelle per i microfoni da tavolo che si mette per la batteria, per il pedale della batteria, e me l'ho messo al posto del braccio del VP4 originale. Il nasello del microfono è modificata la scheda da dentro e gli ho messo il XLR. Sempre così posso collegare i microfoni che voglio, mi segue, però la base è sempre delle VP4. Diciamo un bel passo è fatto, lei sta utilizzando come coso, come comando le MP4 come coso, come diffusore, chiamiamolo, diciamo, di traduttore dello shooter. No, bellissima, proprio bella la modulazione. Sì, esatto, ho fatto proprio quello. E vabbè. Quando me lo prendo l'MC60 per guerra, dai. No, l'MC60 è un bellissimo microfono, questo è questo utilizzando io, l'MC60 funziona molto bene, però c'è anche lui qualche limite. Io ho un amico esperto, un tecnico, mi ha dato la modifica per renderlo più naturale, addirittura io ho una testa RCF, non so se ti ricordi, quelle teste che sono quasi uguali all'MC60, un po' più grosso, che c'ha l'attacco con tre piedini o quattro piedini che si svita la testa. Io uno di quelli me l'avevo messo da parte, non ho tempo di farlo, però un domani lo farò. Mi ha detto ci voleva un paio di componenti, mi ha dato quello che mi ha scritto, quello che ci voleva, mi ha detto se tu fai quello sembra un microfono valvolare. Io i microfoni valvolari ce l'ho, scusa, io i microfoni valvolari ce li ho, domani faccio una cosa, domani prendo e lo provo, però il microfono valvolare deve andare tramite DAE, box. Quindi domani domani mattina prendo una DAE da rack è un Sennheiser valvolare, così lo proviamo. Domani proviamo 2500 di microfono. Non è Neumann? Cosa? Neumann non è di microfoni valvolari, che cacchio è specializzata? No, ho un Sennheiser valvolare, cioè uno, ne ho quattro valvolari. Scusate, i Sennheiser valvolari vanno bene, vanno benissimo. E poi no, Neumann non è un... no. C'è Antonello in parcheggio, facciamo rientrare. Scusa Antonello, che abbiamo monopolizzato. No, tranquillo, sono qua, non ti preoccupare. Ehi, ci mancherebbe. Ma Antonello, tu cosa stai utilizzando invece? Il 140 sto utilizzando io. Adesso è perfetta, la modulazione è bellissima. Poco fa è tutto strano, E cosa ne so io? Va per acceso, quindi a un certo punto per forza fa così. Adesso va bene, mi sembra giusto, no? Perfetto, pulitissima. Ma che microfono stai utilizzando, il 60 o il Palmare? Il Palmare, quello originale. Naturalissima, bella la modulazione, niente da dire. Però poco fa cos'è? Stavi andando a colpi, come che il PTT c'aveva qualche problema, cosa stai facendo? Oggi quando io a un certo punto non uso più, sai che io sono da parecchio tempo che non è in cabanacchina, quindi a un certo punto i difetti ci sono, lo sai anche tu. Adesso da marzo in poi io entro a lavorare, quindi a un certo punto sarà a maggio, giugno, settembre a entrare cocito. Il discorso è quello. Gavi, riprendi, questo Sennheiser dei valvolari non li conosco sinceramente, non sapevo neanche facesse la Sennheiser dei valvolari, ma roba vecchia o roba nuova? No, è roba... roba 2000... 2016, sono molto performanti, e poi ho due, dei microfoni, robe assurde, però vanno attaccati, vanno, siccome ci va la Phantom, ci va la 48 volt, vanno attaccati alla DI box. Una batteria a 9 volt perché altrimenti dovete attaccare al mixer. Il bypass passare quell'attore a quella di là e gli dai la corrente. Ma il valvolare, con il valvolare secondo me spacchi la radio pure. Ora, sono curioso di sentirli, veramente l'ho sentito, vabbè l'ho sentito in banda alle amatoriali, un paio degli allenatori c'aveva i Neumann di microfoni, vabbè, sono molto, molto scrupolosi, questi sono proprio dei fanatici della modulazione particolare, però ti posso dire, quando li senti i valvolari, già lo sai più di me, è una salgumba. C'è qualcuno che ha problemi col microfono? Fischi si sentiva, no? Sì, avanti, buonasera, chi vuole entrare? Avanti, buonasera, chi vuole entrare? Canale 10. Non vuole entrare nessuno, no, va bene. Sì, domani lo provo. Domani lo provo e vediamo un po' cosa dice. Quelli li usiamo, quelli usiamo per il parlato tipo messe, capito? Quando si fanno delle messe all'aperto e queste cose qua. Non sono quelli, cioè tu quello che stai dicendo, il classico microfono normale o quelli tondi grandi che si usavano una volta, di quel genere lì sono, o il classico microfono a coso, come lo chiamiamo, come tutti i microfoni, perché ci sono quelli da studio, valvolari, sono grandi, rotondi, sono frontali, dai, non hanno il manico. No, non è un microfono cardioide, cioè sì, bugia, è un cardioide, semidirettivo. Però è come può essere, guarda, ti posso dire, diciamo la capsula ce l'ha, è quadrata, 5 cm, 5x3, 5 lunga, 3 cm di diametro, non è grandissima la sua insomma antipop. Beh, sono cromati, quel cromato dorato, capito? Vanno molto bene. Si usano per il parlato, quelli lì, diciamo, per le messe, li usi perché sono microfoni molto dinamici, devono essere fedeli. Allora, già ho capito qual è il microfono, quello, il classico Sennheiser, quello squadrato, lo chiamavano il Waffer, lo chiamavano all'epoca, credo che sia quello almeno. No, non è un microfono vecchio, sono microfoni, ti ripeto, del 2016, sono nuova concezione. No, la forma, dico, poi non lo conosco naturalmente, ma tipo con la serie, sai quella che lo usava sempre la Rai quando c'erano i telegiornali, quelli che erano come squadrati anziché tondi. Bravo, sono squadrati. No, quattro squadrati e due rotondi. E poi ho una KG di quello, ne ho uno perché l'altro mi si è rotto, addirittura adesso me lo devo, che me lo devo prendere, lo devo portare a riparare. Quello lì è bello stesso. Scusa, è stata mia figlia. Ma KG valvolare o normale? No, è normale, però il microfono è un panoramico, quello, non panoramico, va sempre alimentato, vola 48 volte. Allora io ho la KG e lo Shure, probabilmente, non so se sono uguali, proprio abbiamo due microfoni uguali, come marca, parliamo poi magari tipologia, magari non lo so, sono ottimi microfoni, lo Shure soprattutto, anche la KG non posso dire niente, fanno degli ottimi prodotti, poi c'erano i Beyer, non so se li utilizzate. Quindi va bene per il Bellinger, forse neanche i cani lo usano il Bellinger. No, non ho detto Meininger, Meyer Dynamics, sono microfoni che hanno fatto la storia, Meyer. Ah sì, scusa, ho capito Meininger, sì, li conosco, aspetta, il Meininger, fatto bu. No, Meininger era una roba commerciale, stiamo parlando di roba professionale a livello di Shure e KG, Meyer hanno fatto la storia, i migliori musicisti, le migliori sale di incisione usavano Meyer, Neumann, KG, Shure, sono quei marchi storici. Sì. Ho un rack di Shure, la serie B, sono otto microfoni, esce un Maserati se li vendi. Adesso, poi il microfono è fondamentale quando fa le incisioni, le registrazioni, cioè, è quello che ti dà la voce, il suono, gli strumenti e tutto, e ogni tipo di strumento devi trovare, i professionisti magari si trovano meglio con quel marchio, con, per dire, c'hanno un HPG per uno strumento, un Beyer per un altro, Neumann li usano tantissimo per la voce, perché sono prodotti eccellenti, valvolari, costano una cifra da paura tra l'altro. Ma sai chi li usa il Neumann? Il dottor Rai, mi sembra una fesseria, ma li usano il Jot Rai. Se tu guardi dentro tutte le console delle cose ci sono i microfoni. Io parlo di Neumann valvolare, poi non lo so, a me non mi è mai capitato di vederli sinceramente, perché avevo molto i Sennheiser, quelli, i classici che parlavamo prima, quelli che utilizzavano la Rai e le Broadcasting, quelle grosse, quel microfono che era all'epoca qualche apprezzo uno dei migliori. Guarda, io sono arrivato scioccato, questa gente prende, non si cambia le gomme, il camion e si compra i microfoni. Tu guarda anche Matterland, guarda dentro le cabine cos'hanno. Sinceramente non ci ho fatto caso, a me una volta mi ha colpito che ho visto un'amplificazione della Macintosh alle giostre, e così in una discoteca, come si chiama, venditore di dischi, c'aveva le Macintosh come amplificatore, ho detto buh, e mi ha fatto un po' perplesso, dai, dico cose del genere, e poi magari casse a tutte le piazze elettrici. Sì, sono proprio, hanno delle passano da un estremo all'altro, sono impazziti. Corrado ha un bel Neumann, ma non lo darà mai, quel microfono non vale 5.000 euro, quel microfono, quello di Corrado, un microfono vale dai 5 ai 6.000 euro, adesso non mi ricordo che se ne sia, ed è un microfono che ha una ventina d'anni, 20-25 anni, e lui ogni sera quando lo ritira la sua cultura, che mette il cultura e se lo porta via. Ciao, si compra una macchina, un'utilitaria usata, con questo dire stiamo parlando di cose per i comuni mortali da fantascienza, dai, ci accontentiamo noi di microfonini, vabbè, non il caso tuo, almeno io quando ho fatto le prove utilizzando il mixer con la radio, avevo messo diversi microfoni, tra cui lo Shure, la KG ed altri, e ti posso dire quello che era andato meglio, non mi sono ascoltato io, però mi hanno dato delle valutazioni ascoltandomi, c'è da dire, bisogna vedere con cosa mi hanno ascoltato, con quello cinese mi sentivano meglio, dice no, è più bella la voce, però magari mi ascoltavano con una 48 e l'altoparlante in dotazione, io ascolto sempre con l'altoparlante esterno, con una radio diciamo abbastanza seria, per cui i parametri, diciamo le cose che ti do sono abbastanza credibili, perché è una cosa ascoltare con un altoparlante da 3 cm attaccato alla 48, un'altra cosa con un altoparlante in cassa acustica, cassa chiusa, beh. Ma scherzi, ma non ci crederò mai a questa cosa. Se ti metto sotto impianto vedi che tra lui la comparazione come si deve. Ma tu vuoi veramente una comparazione come si deve? Tu domani notte entri e ti metto sotto impianto GBL e ti dico tutto. Ti metto sotto GBL e control e ti dico tutto quello che vuoi sapere. Tutto meno. Mettiamo anche la bassa frequenza, mettiamo anche sul bottino a 10 pollici, così ti dico anche le basse che hai. Lo facciamo, in questi giorni voglio regolare il microfono Radunis 908, quello equalizzato, perché quello è troppo sensibile, perché c'ha più 12, meno 12. Devi adesso, come c'ho l'equalizzazione, se uno non vede, un tecnico dice ma come cavolo equalizzato? Mi hanno detto a me, quando mi ascoltavano, c'è da dire sempre lo stesso discorso, bisogna vedere con cosa mi hanno ascoltato. Io ho visto che tu c'hai un software, quello che mi hai mandato, che cos'è? Che software è quello? Su che cosa lo utilizzi? Quello è un software della Soundcraft, è proprio lui, del mixer, del digitale. Io ancora ti dico tutto, video, comunque l'ho finito, non ci ho mandato il video. L'ho vista, non era male la modulazione che mi hai mandato, ho visto tutti i coso, i picchi di coso e le frequenze, era abbastanza lineare come modulazione, pensavo molto peggio sinceramente, ma quello si può scaricare, passare a qualcuno per utilizzarlo col computer o solo con quel tipo prioritario, diciamo proprietario di quel marchio? No, lo puoi scaricare, però devi avere la scheda audio, capito? Devi avere la scheda audio, devi attaccare la scheda audio alla radio e poi lui ti fa l'analizzatore. Beh, non è che usi il microfono normale che mi segui, lui ha attaccato la scheda audio. Ma scusa un attimino, se utilizzo l'uscita in bassa frequenza, perché io su 440 ho l'uscita in bassa frequenza, la CC2, la presa di dietro, quella 13 puli, e l'ho passata, avete analizzato lo spettro audio, l'ho passato lì e c'è anche l'indicatore di livello, tra l'altro, un'altra piastra che mi dà l'indicazione di livello. Utilizzo quello, è come se c'è un'uscita di bassa frequenza di un amplificatore, di una piastra, eccetera, eccetera. Utilizzo quello lì e l'ho mandato all'analizzatore di spettro. Se utilizzo quell'uscita lì e me la metto su un tablet o qualcosa del genere, non posso farlo. Sì, devo avere la connessione. Quando è la connessione per entrare al tablet, certo che lo puoi fare, però quello lì col programma lì funziona con la scheda audio. Io ho una Focusrite e uso con quella, mi segui, io in pratica esco dalla radio, vado alla scheda audio, entro la scheda audio, poi dalla scheda audio entro al mixer e poi dal mixer ti controllo tutto quanto, mi segui? Ho capito, ma se io c'ho una scheda audio esterna, quelle che si utilizzano, USB, mi attacco a quello, c'è in e out, in per attaccare il microfono o una sorgente, diciamo, e out per attaccarti le cuffie. Se utilizzo una scheda di quelle audio così, lo attacco alla presa USB del computer, con l'uscita collegata all'uscita della radio, riesci a farlo funzionare o ci vuole un programma, un software di lettura o qualcosa del genere? No, così riesce a farlo funzionare, quindi tu ce l'hai la scheda audio? Sì, ne ho più di una di scheda, ce n'è anche una professionale di scheda audio. Allora sì che ce la fai, certo, così ho fatto, però io la differenza è che sono entrato al mixer, mi segui? Io sono entrato al mixer, logicamente io ti ho lasciato tutte le equalizzazioni in flat, non mi sono messo a toccare le basse, né altre, né niente, e ti ho fatto l'analizzazione del tuo, diciamo, della tua curva in flat, mi segui? Così come sta uscendo, naturale. E infatti bisogna farla in funzione flat, senza, perché se poi il mixer ti modifica anche il guadagno di qualche frequenza, deve essere neutro, in modo tutto a zero in flat, in modo che non ci siano né attenuanti, naturalmente deve avere anche un mixer di pregio, perché se ti sporca anche il mixer, se c'hai uno di quei mixer scadenti, ti sporca già e tu magari ti dà dei valori completamente sballati, perché tu magari dici, tu sei troppo carico a 2000 Hz, a 1500 Hz, magari è il mixer che te li stai esaltando lui. Che mixer tu li utilizzi per fare questo lavoro? Un Soundcraft V16. Stiamo già parlando qualcosa di pro, non stiamo parlando di Monarch o Behringer. No, una scherza, è un Soundcraft V16. Poi se vuoi la proviamo con il Digico anche. Proviamo con il Digico. No, vabbè, stiamo parlando già di cose super professionali, hanno fatto la studia, quei macchini lì, niente, tanto di cappello, no? Per quello che sto dicendo, che mai uno si mette a fare, tu sei competente, sai, ha dato una bella risposta dicendo di mettere tutto in posizione flat, però mai uno si mette a giocare, si attacca un mix e mai c'ha l'equalizzatore inserito, eccetera. Deve fare meno passaggi possibili, mai più diretto possibile, in modo che l'analisi del coso, il grafico venga nella realtà come lo ricevi, perché molte volte io li vedo qua con i cellulari, ti registrano, poi te lo rimandano, eccetera, ma è tutta una manipolazione, non esiste. Mentre nel caso tuo, visto che era un bel giocattolino, quando mi hai mandato l'immagine ho detto cavolo, questo stiamo parlando, ma a parte quante frequenze c'ha quel coso di controllo, non lo so, non le ho contate, ma ce n'era una marea. La curva, beh, quello non è gap, non è gap, li hai da a più 20, cioè 20.000, boh. Non hai una, per esempio, tu vuoi dare un'equalizzazione, no? Gli digiti la frequenza, per esempio voglio tagliare a 4.680, lui ti prepara la curva a 4.680 e col gain prendi e gli abbassi quanto va abbassato di frequenza, per esempio 4.680 vuoi abbassare di fino a meno 13 dB. Allora prendi col gain a rotella, questa rotella, tutto digitale, la abbassi fino a 13 dB e poi dici che io voglio che questa curva inizi da 4.675 a 4.686, quindi ti fa proprio lo spicchio, ti taglia proprio quella, ti elimina tutto, cioè puoi provare quello che vuoi. In pratica poi succede che vai un bel 3, vuoi eliminare il rumore di fondo e vuoi comprimervi la tua modulazione. Con threshold in pratica lo fa iniziare, lui inizia a lavorare da meno 80 dB, da meno 60 dB fino a meno 20 dB. Quella soglia prende e te la fa vedere tutta, l'altro non lo prende, l'altro non lo pesca, ti taglia la soglia del threshold, poi con la ratio prendi e gli dai la curvatura e non è come fa un bel lavoro. Sì, no, micidiale, ormai con questi sistemi di coso non deteriori il suono, perché lavori su quello che ti interessa e su di decisione fanno dei lavori allucinanti. Io guarda, ho sentito l'intervista, io ho acquistato, anzi me li hanno regalati, dei CD di coso, rimasterizzati di, come cavolo si chiama, De André, Edoardo André, sono una raccolta di 3 CD. Io avevo i dischi di coso, di De André, anche il CD. Ti posso dire, non è che mi piacevano più di tanto, erano un po' fastidiosi. Mi sono preso queste registrazioni, io l'ho riascoltato, insomma, un'altra persona, per dire, la moglie ha detto, quando hanno fatto la registrazione nel coso, ha detto, togliete tutti i sistemi di codifica, di filtri, di cosa, voglio la voce di mio marito come è in realtà. E se tu senti queste registrazioni di altissimo livello, proprio senza niente, è un'altra voce di un'altra persona. E così succede quando voi lavorate su questi formati, queste manipolazioni, queste esaltazioni attenuate, da voi tutto puoi fare quello che vuoi, senza deteriorare la qualità del coso, perché le registrazioni di prima, quelle fatte all'origine di quei dischi che avevo io, sembrano due cantanti diversi, completamente, così voi con quei sistemi digitali pulisci tutto, tiri via tutto, ti togli tutte le sporcizie che ci sono, lavori solo su quello, ti fai la cosa, l'onda, come si chiama, la forma d'onda, te la digiri, te la fai, te la lavori, senza perdere anche tempo, come facevamo una volta, toccando le cose, potenziometri, regolando quello, facendo, invece con questi sistemi nuovi è micidiale. Sì, sono, lo sai chi equalizzava, chi faceva le equalizzazioni in flat ed è veramente la sua voce? Sicuramente è una cantante dei tuoi tempi, ed è una cantante tedesca, si chiama Sandra e il marito era Michael Cretu. Lui era un grandissimo fonico, lui era un grandissimo fonico ed aveva la loro sala di incisione. Loro registravano in flat, erano gli unici che loro registravano in flat. Te ne ricordi, sì? La Puglia, ma concreto la moglie Sandra è una bellissima cantante, ha fatto un sacco di musica della discoteca Maria Maddalena, eccetera eccetera, ne conosco, ne ho diversi perché dischi ne ho tanti, all'epoca ha fatto il coso, è una bellissima donna, brava si fa per dire, perché faceva musica a discoteca. Michael Cretu era greco, si era sposata, era un tecnico, un fuori con grande coso. Poi non parliamo del famosissimo Alan Parsons, che forse sicuramente lo conoscerai meglio di me, che quello ne ha fatto di tutto e di più, poi si è messo a comporre anche lui, ha fatto dei bellissimi pezzi. Quello lì, vedi che come escono le cose. Chi un po' capisce di queste cose qua sa sa di cosa sto parlando. Poi ci sono tantissime, poi sì, vabbè, in registrazione si mettono, loro andavano inflati, però mettevano un po' qualche effetto, perché l'effetto c'era, però era un suono molto neutro, hanno fatto musica alla discoteca, però Sadra ha fatto anche qualche effetto bello, sì. Io per essere giovane, io ho 40 anni, per essere giovane conosco molti artisti di quell'era, e niente. E un altro che, vabbè, lui è un po' gaggio, che non cantava neanche lui, cantava, era Denaro, la voce di chi cantava per lui, perché non cantava lui, la voce di chi cantava per lui, lo stesso veniva registrata senza nessun tipo di equalizzazione, senza nessun tipo di niente, era solo la voce, era la voce sua. Non mi ricordo chi era l'artista che metteva la voce per le sue esibizioni, però anche lui andava a registrare in flat. Erano pochi che registravano in quel modo. Tom Hooker era chi lo faceva, la voce di Denaro. Cosa, Rudy? La voce di Denaro, che lo sa poca gente, era Tom Hooker, grandissimo produttore e musicista americano, una bellissima voce, anche se c'ha un nome straniero, però è italiano di origine lui, e non so per quale motivo poi si chiama, ha messo uno pseudonimo, si sono andati in causa un sacco di volte perché lui ne ha approfittato, Denaro, di questo fatto qua, perché lui non sapeva cantare Denaro, ha fatto un paio di concerti in playback e ha fatto ridere. Lui era un bel tipo, le ragazzine lo ammiravano, un bel fisico, però che era Tom Hooker, faceva tutte le canzoni, le faceva lui, le cantava lui, e quello faceva finta di cantarle. Sì, ma lo sa veramente poca gente di quanto, perché era una casa discografica che aveva conosciuto questo belluccio e ha detto: io te ti farò fare successo, e poi chissà come è andata. E Tom Hooker si ha messo la sua voce. Tanto è vero che quando Denaro ha fatto il concerto in Germania, c'era questo tipo di festival bar in Germania nel 1997, lavorava un ragazzo, che adesso non è ragazzo, ha lavorato un sardo in quel palco, della zona dell'Oristanese. Niente, tutto in playback, ha fatto un paio di pezzi, ha tolto la sua voce fuori, ha fatto schifo. Allora, quel concerto lo conosco molto bene, perché l'ho anche visto, non dal vivo, l'ho visto apposta, l'ho guardato apposta, e lui era in canottiera, era d'estate, si è messo a petto nudo, poi c'erano le ragazze impazzite, poi è anche un bel fisico, bisogna dirlo, uscivano di testa per questo qua. In Germania poi sono ben visti gli italiani, erano le ragazzine incantate di questo qua. Poi era andato, mi pare, all'Isola dei Famosi, non so dove era andato, che si era messo a piangere, aveva fatto di tutti i colori, perché era, diciamo, detto come povero, un mezzo frilletto, dai, però. No, ma ce ne sono tanti di cantanti così, che noi riconosciamo di cose, invece non sono nessuno, era tutta roba preparata in cosa, in sala d'incisione, ce ne sono tantissime. Denaro all'epoca è stato uno di quelli più famosi nel senso negativo, nel senso che ha fatto un successo enorme in tutta Europa, però era finto, non era lui. Io, non per dire, forse perché sono grande appassionato di musica a tutti i livelli, io ho comprato dei dischi, non tanto per l'attore, per il cantante o per il gruppo, perché volevo ascoltare un disco di qualità. Ci sono le recensioni, quando io leggevo tante riviste specializzate, c'erano molti dischi, li provavano. Io ho preso dei dischi apposta proprio per sentire la qualità. Ne ho preso uno, un CD, che era un riferimento di una rivista, di Ray Machine, come si chiama quel gruppo? Fece Ray Machine, non so, fanno una musica rock durissima, aiutami tu, dai, mi è capito che dice Ray Machine l'ultima frase. Oh, ma già adesso? Questo ce l'ho una decina d'anni, Game Verashin, finisce, vabbè, adesso non mi viene, dovrei andare a cercarlo questo disco. Questo l'ho acquistato apposta perché era una registrazione da 10, nel senso tutte le prove che hanno fatto rarissimamente hanno messo quei valori di incisione, qualità, gli strumenti in evidenza, tutto qua, e c'era il basso, era un punto di riferimento per il basso, e io l'ho provato proprio apposta per vedere dove arrivava l'impianto mio. E aspetta, dopo te lo dico, dopo vado, mi sta venendo adesso il mio, ci credi, non riesco a ricordarmi il nome del gruppo. Non mi piace assolutamente la musica, perché non è il genere che piace a me, però l'ho acquistato così. Non so se ti ricordi il gruppo Liesia, Asia, detto volgarmente, dove c'era Carl Palmer, Steve Hack, tutti quei gruppi, tutti i musicisti più famosi dell'epoca, e avevo acquistato quell'LP perché all'epoca era il top del top di incisione. Sì, sì, sì, sì, quelli me li ricordo, quelli me li ricordo. Io avevo anche preso, qualche volta l'ho utilizzato anche come sound check, diciamo come analisi di tratta. Gli Enigma, utilizzavo anche gli Enigma come prove, e poi Daft Punk, lo conosci? Enigma facevano mea culpa, già non ricordo, me lo suono, però era tutto digitalizzato quello. Esatto, esatto. E Daft Punk li conosci? Sì, anche se non devo dire che è il genere che piace a me. Io ti vorrei far sentire, se ti capita, ascoltati un'incisione di Spagna, te ricordi la cantante Spagna, Ivana Spagna? Certo, Lady Lady. Allora, Ivana Spagna è famosa per la musica disco, Easy Lady, tutta quella gente lì, quel gruppo, cioè quel genere musicale negli anni 80, ai tempi di Denaro, eccetera, eccetera, ha soppiantato tutti, in tutta Europa faceva musiche spettacolari da discoteca. Tu la devi ascoltare facendo musica seria, di qualità. Io ho un'incisione di quella lì, quando voglio buttarmi dentro la casa attacco quelli, ci sono dei pezzi di bassi, di batterie, esce da interno la casa, ma questo pienezza e pulizia di suono, poche volte ho sentito della musica a quei livelli, ma proprio da paura. Adesso ti guardo un secondino come si chiama quel gruppo che dico io, un secondino rimane. Dopo, Antonello. Non mi veniva il nome, Rage Against the Machine, questo è un gruppo di musica rock da combattimento. No, non li conoscevo, non ce li ho presenti. Scusami, mi hanno chiamato al telefono, Gavi. Ci sei, Gavi? Attenzione al canale 10. Hola. Hola. Ci sei, Gavi, no? Sei rientrato? No, mi ha chiamato al telefono un amico. Sì, vabbè. Ce l'hai un attimo di pazienza, vabbè, che devo andare un attimo in bagno. No, ci manterrebbe, no, scusa, mi hai fatto detto, cioè, ma mi abbia sentito quando ero al telefono. Sì, stavo aspettando magari che rientravi, per lasciarti così, perché ho capito che eri al telefono. Però un attimo in bagno, vabbè, c'è un attimo di pazienza. E ci manterrebbe, fai con comoda, cioè sono qua. Sì, vabbè, scusa, non ce la facevo più. Scappa, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Ti volevo chiedere una cosa, se puoi. Ma tu hai ricevuto le Gantenai? Quella che ti ho detto del coso, tipo un discone, però non un discone, credo che sia della LEM, no, della Midland, è tutta in acciaio inox, funziona anche in trasmissione oltre che in ricezione con l'antenna, e l'ho collaudata anche in trasmissione, fa da, sembra da 25 a 1300. E ce l'ho anche io, però io ho la LEM, la V8. Ma tu lo sai che con quell'antenna lì ho dovuto mettere uno filo dove si aggancia, diciamo, i radiali verticali, orizzontali, l'ho dovuto mettere su nel pianino che rimane per inserire quel disco, uno filo di 2 metri, ed è migliorata, diciamo che è più performante, però mi sembra un'antenna meglio sorda a me. Aspetta, non so quale c'hai tu, allora no, quella che c'hai, i radialini orizzontali tutti paralleli al terreno o quelli inclinati verso il basso? Tu? Allora io ho quelli che vanno paralleli al terreno e poi, diciamo, e poi ho quelli, diciamo, a 90 gradi, ma a 45 gradi verso il basso. Ne ha 8 e 8. Il piantone come preso fusione di ottone e cromato? Alluminio, alluminio. No, no, non è come la mia. Allora la mia ce l'ha un radiale poi più lungo di tutti gli altri in resina per accordarla, che sarà un metro. No, questa qua non ce l'ha, questa qua lavora solo con i radiali perpendicolari orizzontali, perpendicolari al terreno e con... e con 8 radiali che vanno verso il basso più lunghi, tutti uguali, e io gli ho fatto lo stilo, io gli ho fatto, diciamo, lo stilo in punta come la tua, ma l'ho fatto col tubicino d'alluminio giusto che entrava nel fiolino, ed è 2 metri ed è molto più, è diventata molto più, dai, molto meglio, ed è molto meglio, però me la volevo cambiare, stavo leggendo su dei forum che per che potrebbe andare bene una logaritmica di quelle per la televisione. Però quella logaritma dipende da cosa devi ascoltare. Allora io mi sono acquistato, che l'ho provata una volta solo, un'antenna militare che tu devi vedere, è allucinante come è costruita, tutta in alluminio, però un alluminio particolare, verde, tinta di verde, tra l'altro dentro una specie di sacco che la metti dentro, in giunta questa la apri, tutti i radiali si aprono, ma di una robustezza, un'antenna militare stiamo parlando, ti danno anche il palo in resina, un pezzo di palo per infilarla dentro, perché c'è una specie di piantone che si infila dentro per far andare in orizzontale e in verticale. Tu vedete, però dipende da cosa vuoi ascoltare tu, naturalmente. Quella che ho io c'ha di buono, che la cosa è anche in trasmissione. Infatti quando c'era la classica discona, quella della LEM, eccetera, eccetera, io le avevo tutte e due confrontate. L'avevo comprata la GBC, c'ha tutti i radiali in acciaio inox. La parte centrale del piantone si avvita, c'ha una specie di avvitatura sotto, la devi avvitare proprio sul palo, deve avere un palo tipo di grandezza tipo un tubo innescente, gliela avviti sotto perché è filettata, e il PL infatti passa all'interno del palo, e poi c'è questo radiale, sarà 45 gradi in resina, che per tararlo, tipo un'antenna telescopica, ha due elementi che si allunga, è tutta in inox, tutti, non c'è un pezzettino di materiale che non sia di altissima qualità, l'impresso fusione di coso, di ottone cromato, roba nautica, tu la guardi adesso dopo, quanti anni ce l'ho, dal 2004 che l'ho montata, siamo nei due, quasi 20 anni, e tu vai a vedere nuova fiammante, lucida, lucida, ha preso vento da tutte le parti ed è un treno, io l'ho provata anche in trasmissione su 88-108 e funziona, 27, manda da 27 e funziona, manda a 144 e funziona, ti posso dire, sono rimasto molto stupito dalle prestazioni di questa antenna, di nuovo a te Gavetto. No, la mia sulla 27 non funziona, proprio niente, sulla 27 non va, ma non va veramente, non per me niente, va, te faccio sentire, ti faccio la registrazione adesso, sulla 27 non va niente, è strana, infatti me la prenderò una Midland, giusto? Guarda, mi sembra che sia della Midland, l'ho comprata la GBC, ti devo dire il modello esatto, devo cercare, cioè, l'ho conservate le caratteristiche di questa antenna, perché fa ricezione e trasmissione, diviso le cose. Una cosa interessante è che la puoi anche, naturalmente è sempre un compromesso, ogni antenna deve essere dedicata alla sua frequenza, però ti posso dire, per quelle dimensioni che c'ha va più che bene con l'antenna, e mi ha colpito che funziona anche in trasmissione, al contrario delle cosiddette discone, che quelle lì ce le sono in ricezione, se ti metti a farle funzionare, cioè, che grossi. Io avevo fatto il confronto con la Grand Plane, perché avevo una mini Grand Plane più o meno di quelle dimensioni di tutta, ce l'ho ancora, della Leme, tutta in resina questa Grand Plane, bellina, dai, me la portavo giù al mare a Platamona, e ti posso dire, non ne vedevo differente con la Grand Plane, più o meno lo stesso risultato avevo, sia in trasmissione che in ricezione, considerando che le antenne sono simili come cosa, e quella lì invece è un'antenna larga banda, quella della come si chiama, mi sembra che sia della Midland, però non ti voglio dire, o Midland o CTA International, adesso non sono sicuro, dovrei guardarlo. Sì, perché io addirittura volevo prendere una X510 per le VLU, per ascoltare le VLU, però è arrivato dopo un certo punto, va fuori banda e non riceve. Qua per esempio io ho sui dai 4 e 30 dai 4 e 25, non prendo più niente, proprio sorda, è uno schifo. Allora il discorso è, vabbè, a vedere anche, vabbè, l'antenna naturalmente, cosa c'è vicino, se ti disturba, io non so esattamente dove stai tu, ma hai provato a fare la prova con un'antenna dedicata per salire? No, io anche su, anche più in alto, io ho fatto prove anche con il ricevitore, riceve 7000 e arrivarsi a 2000, io sono salito anche 800, 1200, capitato, segnali digitali, però li riceveva, qualcosa faceva, non ti dico che c'è chissà che cosa, però discretamente funzionava. Io consiglio mettere, visto che sei grande appassionato, tu 510 è già un'antenna impegnativa, se c'hai la possibilità di metterla la metti, perché sennò puoi mettere anche la X300 e poi ti metti commutatori, tale commuti le antenne, ti metti due o tre antenne, una per le bande VEU, poi un'altra per ti vuoi ascoltare a me piace ascoltare anche le stazioni lontane broadcast 8808, infatti mi divertivo a cercare segnali, oppure ascoltare per dire aeronautica, così, altri tipi di comunicazioni, dai. E faccio tutto con quell'antenna lì e mi dico e mi diverto abbastanza, anche se adesso ci sto andando un po' di meno, però nel piccolo già funziona, poi naturalmente se c'è le antenne dedicate vai molto meglio. Riprendi? Sì, no, vabbè, per mettere le antenne dedicate non è un problema, per esempio sì, le potrei mettere, io non ho problemi, perché per esempio per la 27 li potrei mettere una Sirio, o per le VLU li metterei una